in primo piano. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi. Mercoledì 21 agosto 2013, ci avviamo verso la fine dell'estate, ma le nebbie cominciano ad avanzare in maniera massiccia, soprattutto sul fronte politico. Cerchiamo di capire qualcosa dai giornali di oggi, ma il compito è abbastanza difficile, per non dire ambizioso. Il secolo XIX, il secolo XIX, anzi, come si dice, il PD non cede. Letta pronto alla crisi, il messaggero Berlusconi pronti alla crisi. Il Corriere della Sera, Letta in campo contro la crisi. Ecco, l'unica parola che accomuna questi titoli è la parola crisi. È una crisi che non c'è. Tutti lavorano, tutti dicono di lavorare per evitare la crisi, ma di fatto di crisi si parla. Continua ad essere l'argomento dominante della politica italiana, una politica che per adesso è una politica ancora di dichiarazioni, di prese di posizione, di interventi in vista del voto del Senato, della giunta del Senato sulla eventuale decadenza di Berlusconi da senatore per la sentenza che lo ha condannato appunto nei giorni scorsi. Il Corriere della Sera, Letta in campo contro la crisi, vi dicevo, Berlusconi e Alfano verso l'ultimatum immediato al Premier. Il PDL si assumerà le sue responsabilità sul Cavaliere, il PD farà la scelta giusta. Queste sono dichiarazioni di Enrico Letta. Il governo lavorerà finché avrà la fiducia del Presidente della Repubblica e del Parlamento, scrive il Corriere della Sera da Vienna. Enrico Letta si è detto ottimista sul destino dell'esecutivo. Sull'ipotesi che il PD faccia mancare il suo sostegno nel caso di una decadenza di Berlusconi, il senatore ha aggiunto: mi fido del fatto che si assumeranno le loro responsabilità. Ultimatum da Berlusconi, risposte in 10 giorni o crisi. Questo è appunto il titolo principale, così come il titolo principale della Stampa è crisi. Letta avverte Berlusconi, ma la Stampa aggiunge anche qualche elemento di contorno. Il fisco trova 5.000 evasori totali in 6 mesi, frodi per un punto di PIL. Il Giorno, Letta, ultimatum al PDL, assumetevi le vostre responsabilità. E questo è un po' la dichiarazione che viene raccontata in tutti i giornali e anche appunto il messaggero Berlusconi pronti la crisi. Vi dicevo, la decisione dopo un vertice con Alfano, Verdini e Santanchè, deluso da Napolitano e Letta. Sul fronte di gli altri titoli che non riguardano strettamente la politica, uno che si avvicina molto perché riguarda invece la polemica che il Giornale ha aperto contro il giudice Antonio Esposito. Esposito odiava Berlusconi, il titolo grande del Giornale, diretto da Alessandro Sallusti, e spiega una testimonianza di Franco Nero. L'attore presente alla cena con il magistrato conferma parola per parola i pregiudizi sul giudice. PDL e ancora il Giornale: varata l'offensiva d'autunno, Letta getta benzina sul fuoco. Su altri argomenti, Libero: assalto alle pensioni, il piano di Amato, il governo riesuma il dottor Sottile. Dopo che la Consulta ha salvato i vitalizi d'oro per alzare quelli minimi, prenderà i soldi dai contributi che versano i normali lavoratori. E questo è il titolo principale di Libero, che racconta, con un articolo di Mario Giordano, se avremo tempo lo vedremo, racconta come il governo stia pensando di attuare un nuovo meccanismo in cui diminuirà un po' le pensioni d'oro, ma aumenterà anche i contributi per i lavoratori, in modo da trovare dei fondi per aumentare le pensioni minime. Sempre sulla crisi, anche il titolo grande di Repubblica, l'alto là di Letta a Berlusconi: se il governo cade, il responsabile è lui, la preoccupazione di Napolitano. Ma vi dicevo di altri argomenti, è quello di Avvenire, che ha un titolo grande: è un paese per giovani, si chiede Avvenire, prime risposte agli under 35, ma sul lavoro dell'esecutivo pesa la minaccia del caso Cavalieri. Il bilancio dei provvedimenti del governo con l'età media più bassa, mentre crescono le fibrillazioni per la decadenza di Berlusconi. Anche qui Avvenire parla appunto della crisi come sfondo a, di difficoltà a, in, all'impegno che il governo sta mettendo per cercare di affrontare il tema dei giovani, un tema particolarmente importante soprattutto sul fronte dell'occupazione e soprattutto sul fronte delle speranze dei giovani. Direi quasi come contrapposto al tema dei giovani c'è quello degli anziani, boom di centenari nascosto in un genere di residui di lunga vita, e La Stampa che ha il titolo alto su questo tema e due pagine all'interno, le vedremo tra poco. Sui temi ovviamente strettamente economici è Il Sole 24 Ore, la Fed spaventa i mercati, la Federal Reserve, la banca centrale americana, Piazza Affari perde l'1,41%, lo spread BTP Bund risale a 247, ondata di vendite in Europa e in Asia, nel timore che si riduca la liquidità in USA negli Stati Uniti, euro ai massimi da 6 mesi. Ecco, queste tensioni dei mercati sono anche associate alle nuove accuse verso le agenzie di rating, tornano le critiche, i malumori nei confronti delle agenzie di rating, e c'è un articolo di Donato Masciandaro, come sempre molto preciso nei suoi interventi, in cui afferma appunto che quando le opinioni diventano leggi, parlando proprio delle agenzie di rating che sono state messe giustamente sotto accusa negli ultimi tempi anche per non aver saputo da una parte prevedere quanto sarebbe successo sul fronte dei mercati, dall'altra per aver addirittura accentuato le tensioni sui mercati finanziari. E scrive Masciandaro: esprimere opinioni può essere efficiente, come pure contestarle. Quello che è inefficiente ed iniquo è che opinioni possono diventare leggi, creando danni e guadagni ingiustificati. È quello che continua a succedere con le agenzie di rating, i cui giudizi, per il solo fatto di essere divenuti parti integranti delle regole finanziarie, continuano ad essere una fonte di distorsioni sul fronte appunto dei mercati. E continua Masciandaro: distorsioni che da un lato possono causare danni ingiustificati a singoli stati sovrani ed imprese, dall'altro rendite improprie alle stesse agenzie di rating, nonché alla parte parassitaria delle istituzioni di controllo e di vigilanza. Siamo alle solite. Un'impresa, e questo Masciandaro cita il caso avvenuto nei giorni scorsi, un'impresa come Italcementi trova affrettata la decisione di un'agenzia di rating, Moody's, di rivedere al ribasso il giudizio sulla sua rischiosità, sottolineando la distonia tra il quadro generale che l'azienda presenta, confermato dalla andamento dei corsi azionari, e un giudizio focalizzato, concentrato sul caso Egitto. Lo scorso mese è accaduto, ricorda Masciandaro, che il Ministero dell'Economia di uno Stato sovrano, come l'Italia, avesse criticato un'altra agenzia di rating, Standard & Poor's, per un analogo comportamento. Certo, nessuna impresa e nessuno Stato sovrano ha mai da ridire quando le agenzie di rating rivedono al rialzo, al meglio, i loro giudizi. Ed allora, perché preoccuparsi? Al contrario, esiste un'anomalia congenita dei mercati finanziari che mostra come quando il deficit di un bene pubblico, l'informazione, crea danni diffusi e poco percepiti, mentre i benefici sono ben concentrati e difesi, quel deficit rischia di diventare strutturale. E questo è un articolo che poi prosegue Masciandaro nella sua analisi, dicendo in pratica che qualcosa si dovrebbe fare, anzi qualcosa si è fatto anche in Italia, ma sono solo gocce nel mare, perché questa situazione, questa logica, anzi questo impero delle agenzie di rating è difficile da scalfire, è difficile da assoggettare a delle regole, anche perché i mercati in fondo si basano anche sulle opinioni, non solo appunto sui fatti, ma anche e soprattutto sulle prospettive. Sul Sole 24 Ore c'è anche il titolo su Berlusconi, letta su Berlusconi: il PDL si assumerà le sue responsabilità. Un editoriale di Luigi Guiso: se le risorse ne saremo più dell'orgoglio. Ma anche titoli sugli evasori fiscali: scovati 5.000 evasori totali. Vi ricordo anche che sul Sole 24 Ore c'è la pagina quotidiana di aiuto ai risparmiatori a orientarsi degli investimenti, e oggi è dedicata alle banche. Quando finirà la crisi del sistema bancario globale, a 6 anni dallo scoppio della bolla subprime e nel periodo del credit crunch, la pagina è dedicata appunto all'andamento dei titoli finanziari, con i consigli degli analisti per un investimento adatto al profilo di ciascuno. nel Sole 24 Ore anche una guida alle ristrutturazioni edilizie, come procedere e usufruire delle detrazioni senza sbagliare o dimenticare nulla. Quando il fisco ci dà qualcosa, è meglio cercare di averlo tutto, ovviamente, se facciamo anche tutto il nostro dovere di contribuenti. Ma torniamo alla politica, torneremo poi al Sole 24 Ore nella terza parte del giornale. Torniamo alla politica con un paio di editoriali che vi sottolineo particolarmente. Il primo è di Sergio Romano sul Corriere della Sera, in cui parla di maturità della politica. È un titolo che è già un auspicio in se stesso. Piaccia o no, scrive Sergio Romano, la sentenza della Cassazione ha creato una situazione che nessuno può ignorare. Occorre aspettare che la Corte d'Appello di Milano definisca nuovamente la durata delle pene accessorie del periodo nel corso del quale Silvio Berlusconi non sarà eleggibile. Ma è ormai certo, circostanze oggi imprevedibili, che il leader del PDL trascorrerà un periodo agli arresti domiciliari o in affidamento ai servizi sociali e non farà parte del Parlamento, scrive Sergio Romano. Non so se la sua carriera possa considerarsi definitivamente conclusa, ma un uomo duttile e realista come Berlusconi ha dimostrato di essere in parecchi casi. Non può ignorare che la sentenza nella parabola della sua vita politica è un imprescindibile spartiacque. Prosegue poi Sergio Romano concludendo: questo delicato passaggio diventerebbe meno difficile se Berlusconi dal canto suo si rendesse conto delle proprie responsabilità. Ha fondato un partito che continua ad avere i consensi di una parte del paese e ha creato le condizioni per una democrazia dell'alternanza. Spetta a lui evitare con un passo indietro che questo partito dipenda interamente dalla sua leadership. Spetta a lui assicurare la transizione e lasciare dietro di sé un personale politico capace di raccogliere quella parte della sua eredità che è ancora utile al paese. È questo il lavoro socialmente utile che potrebbe dare un senso al crepuscolo della sua avventura politica. Molto esplicito in questo articolo, in questo commento, Sergio Romano chiede a Berlusconi da una parte di fare un passo indietro, ma dall'altra anche di operare attivamente perché la stabilità politica rimanga, perché la politica faccia il suo corso e anche perché la destra abbia una possibilità di proseguire al di là della sua persona. Ma andando ancora più a fondo dei temi del paese, della coesione sociale del paese, è molto interessante l'articolo di Giulio Sapelli sul Messaggero di oggi. Stabilità che manca, il paese riparta dalla coesione sociale, va al di là e al di sopra, direi, dei temi stretti, della polemica stretta e contingente sulle sentenze, sugli effetti delle sentenze. E scrive Sapelli: la minaccia di disgregazione non proviene in Italia solo dalla politica, ma anche dalla società economica. Viene dall'aumento delle divisioni sociali che non trovano più collanti, ossia forme organizzative che insieme le rappresentino e le moderino. Così emergono i fenomeni dissociativi estremi che pongono in pericolo l'ordine sociale e morale di un paese che non ha mai fatto i conti con il passato terroristico e di violenza che lo ha investito proprio quando i contenitori delle spinte dissociative iniziavano a logorarsi. Parlo dei grandi partiti di massa. Naturalmente è dall'emergere di contro di forme invece occlusive dell'ordine sociale, di natura solo repressiva come la magistratura, per esempio, o le associazioni segrete e clientelari insieme. Ecco, in questa analisi Giulio Sapelli prosegue: è chiaro che per impedire la disgregazione dal basso del governo si può e si deve operare per dare vita a una più decisa politica di riaggregazione sociale in senso verticale, con rapide e incisive azioni di politica economica. In primo luogo evitando penose figure incredibili per un paese civile come quella che si corse su una misura che è la golden share del governo, l'eliminazione dell'IMU. Si giunse a proporre ben 9 alternative senza concludere nulla e lasciando di stucco un intero paese. Basta con i tecnici, dice Giulio Sapelli, avanti con la politica. Poche misure e chiare e decise. Via l'IMU e no all'aumento dell'IVA. Ridiscussione radicale del patto di stabilità e modifica delle regole di Maastricht. Imponendo forti del Parlamento europeo che si è già espresso su ciò, semplicemente l'eliminazione dal calcolo del deficit delle spese per gli investimenti. E conclude Giulio Sapelli: la politica dell'austerità e quindi la disgregazione sociale e morale si combatte in primo luogo alzando la testa e difendendo gli interessi nazionali e portando questa dignità in Europa, non accettando nulla di scontato che venga da un mondo che si salva e noi con esso, solo se si costringono i tedeschi a ritornare alla ragione. Possiamo farcela e possiamo non sprofondare nel caos, così come avverrebbe se il governo Letta Alfano finisse travolto anche dal disordine istituzionale e dallo squilibrio dell'ordinamento democratico in cui siamo immersi. Ma abbiamo il dovere di lavorare con speranza in mezzo alle rovine, prima della ricostruzione. Ci sarà tempo anche per quella, conclude Giulio Sapelli, il suo, diciamo così, appassionato articolo di fondo sul Messaggero, in cui richiama la politica ad assumersi la responsabilità concreta di fronte al paese, di cosa concreta che vada al di là e al di sopra delle polemiche strumentali. Ci fermiamo qui, diamo spazio alle notizie sul tempo. In primo piano. Rieccoci, buongiorno ancora da Gianfranco Fabri, rieccoci a guardare i giornali di oggi. Come vi dicevo, la politica è in primo piano e per fare un po' di par condicio leggiamo rapidamente due brevi passi da due articoli, uno del Giornale diretto da Alessandro Sallusti, l'altro di Repubblica, e sul giornale Vittorio Feltri parla di macchina dell'incenso e si riferisce proprio a Repubblica. Quelli del PD, scrive Vittorio Feltri, non hanno neanche il buon gusto di dissimulare la soddisfazione. I loro occhi brillano, le loro dichiarazioni tradiscono felicità. Già, il momento atteso 20 anni è giunto: eliminare Silvio Berlusconi dal novero degli avversari, cancellare il suo nome dalle liste elettorali e dall'elenco dei senatori. Figuriamoci, scrive Vittorio Feltri sul Giornale, se sono disposti a farsi sfuggire la ghiotta occasione. Basta leggere Repubblica, la sacra scrittura dei comunisti, e Affini, per capire le intenzioni del partito, sia pure con grande ritardo, ha dato vita a un compromesso storico in XVI. Più che altro un aborto di ciò che aveva concepito Enrico Berlinguer allo scopo di impadronirsi del paese. Ogni articolo di quel giornale è improntato a uno spirito di vendetta. Il cavaliere deve morire, almeno politicamente, visto che purtroppo gode di buona salute. Scrive con senso di ironia, quel purtroppo, ovviamente. Vittorio Feltri sul Giornale. Allora vediamo Repubblica, attaccato appunto dal Giornale, e in effetti il direttore Ezio Mauro scende in campo oggi con un articolo di fondo molto breve, in cui il titolo è Il mondo rovesciato. Come nelle epoche maledette, quando la politica diventa impostura, stiamo assistendo a un rovesciamento clamoroso del senso, a un sovvertimento della realtà. Il reato commesso da Berlusconi, scrive Ezio Mario su Repubblica, sanzionato a 3 gradi di giudizio, è scomparso. Nessuno chiede conto all'ex premier del tesoro illegale di 270 milioni di euro costruito a danno della sua azienda e dei piccoli azionisti per giocare sporco nel campo della giustizia, della politica e dell'economia, alterando regole, concorrenza e mercato. Del mondo alla rovescia, scrive ancora Ezio Mauro, in cui viviamo, e si chiede invece a un soggetto politico, il PD, e a due soggetti istituzionali, Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato, di compromettersi con la tragedia della destra, costretta a condividere in pubblico i crimini purati del suo leader. Ecco quindi questo faccia a faccia tra Vittorio Feltri, che parla di macchina dell'incenso, e di Ezio Mauro, Il mondo rovesciato, su Repubblica. Ma parliamo di un tema, di due temi che abbiamo già accennato nell'introduzione: i giovani e gli anziani. I giovani è il titolo principale di Avvenire, che si chiede se è un paese per giovani quello in cui viviamo, e fa il punto sul bilancio, sull'azione del governo in questi giorni, e sottolinea come sui giovani bisogna puntare. Valgono 242 miliardi di euro, la fuga dei cervelli ne costa 5, dei 3,8 milioni di under 35 che lavorano viene il 17% del PIL. L'articolo di Luca Mazza è molto esplicito, dice: i giovani e pensi la disoccupazione è una situazione mentale e verbale divenuta purtroppo automatica negli anni della grande crisi, quando il numero dei ragazzi senza lavoro è cresciuto progressivamente dal 2008 in poi, fino a sfiorare adesso la percentuale incubo del 40%. Eppure, quando si pronuncia la parola giovani, ancora oggi dovrebbero venire in mente anche espressioni come risorse per il paese, capitali d'impresa, creatori di ricchezza, protagonisti dello sviluppo. Non lo sostengono, scrive Luca Mazza su Avvenire, solo gli esperti o gli economisti ottimisti, ma lo confermano i dati. Una recente indagine dimostra che nell'ultimo anno i 3,8 milioni di giovani giovani occupati hanno prodotto un valore aggiunto all'economia italiana quantificabile in 242 miliardi di euro, il 17,2% del PIL. Una parte significativa di questo contributo determinante che le nuove generazioni portano al prodotto interno lordo è dato dalla crescita del numero di aziende guidate da under 35, oggi sono 675.000, il 10% in più rispetto all'anno scorso, e si è stimato che oltre 100.000 realtà siano in attesa dell'occasione propizia per mettersi sul mercato. E Luca Mazza poi accenna al fatto del problema appunto dei giovani che vanno all'estero, che cercano all'estero la loro possibilità di trovare, di costruire un futuro, e scrive: in una strategia che punta ad aumentare l'occupazione giovanile e di conseguenza a far crescere l'economia del paese, non possono mancare azioni di contrasto alla fuga dei cervelli. Secondo gli ultimi dati dell'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, nel giro di un anno le emigrazioni dalla penisola sono salite del 30%, si è passati dai 60.000 del 2011 ai 79.000 del 2012. 6 su 10 scelgono l'Europa e la meta preferita resta la Germania. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinti, ha calcolato che i trasferimenti dei nostri migliori talenti sono costati allo Stato 5 miliardi di euro. Una cifra enorme regalata ai competitor stranieri, ha spiegato il leader degli industriali. E conclude Luca Mazza la sua analisi su Avvenire. Per far comprare un biglietto di ritorno ai tanti che hanno scelto di scappare servono interventi a tutto campo. Oltre a incentivare la nascita di start-up, occorrerebbe favorire il passaggio generazionale alla guida dell'azienda. Secondo una ricerca degli artigiani, il 47% degli imprenditori artigiani non sa a chi cedere il timone. Eppure sarebbero 2 milioni i potenziali imprenditori tra i ragazzi di 18-35 anni pronti a subentrare al comando. Ma il 93% è frenato dalle difficoltà legate al credito necessario, al carico fiscale elevato e all'eccesso di burocrazia. Credito, fisco, burocrazia, questi sono i temi che ritornano direi periodicamente quando si guarda alla realtà italiana. Questo era l'articolo di Luca Mazza, l'inchiesta, due pagine di Avvenire dedicate al mondo dei giovani, alla necessità di attuare delle politiche attive per i giovani. E parlando di giovani, anche qui facciamo un po' di par condicio, parliamo anche dei vecchietti, boom di centenari nascosto in un gene, l'elisir di lunga vita. Dal colombiano di 123 anni alla donnina di Pallanza, la scienza studia il segreto dei super anziani, ed è La Stampa che ha due pagine interne dedicate a come arrivare, superare, ovviamente si spera in buona salute, i 100 anni, e ci sono i consigli di un, non è un centenario ma ha 87 anni, è Umberto Veronesi, un grande primario della chirurgia, ancora oggi sulla breccia soprattutto dal punto di vista intellettuale. E scrive Veronesi: l'invecchiamento è parte del disegno del nostro DNA e dunque è una necessità biologica, non può essere considerata né un bene né un male. Come individuo e come società possiamo però influire sulla qualità di questo inevitabile processo e trasformare la longevità in un patrimonio, così scrive Umberto Veronesi sulla Stampa. Due sono gli strumenti fondamentali: un'alimentazione frugale e prevalentemente vegetariana e il coltivare il senso di motivazione profonda e amore verso la vita. Sappiamo che in assenza di malattie gravi e invalidanti questi due elementi sono i capisaldi di una buona e lunga vecchiaia, dall'esperienza degli abitanti dell'isola di Okinawa, i più longevi del mondo. Le due regole che segue questa piccola comunità giapponese sono Ishikukuden, che significa il cibo è la tua medicina, e Imaru, che indica il senso di appartenenza alla comunità. A Okinawa gli anziani sono rispettati e la loro saggezza e esperienza viene considerata un valore prezioso e insostituibile. Del resto, è ancora Umberto Veronesi sulla Stampa che scrive, anche la storia occidentale ci insegna che pure in età avanzata si può contribuire molto alla crescita sociale. Basta pensare a artisti come Picasso, poeti come Montale, registi come De Oliveira, hanno prodotto le loro opere migliori nell'ultimo periodo della loro vita. Per questo io credo che la nostra età sia l'età della nostra mente, e le recenti scoperte delle neuroscienze ci indicano questa direzione. Pochi anni fa, conclude Umberto Veronesi sulla Stampa, abbiamo scoperto che le cellule cerebrali si rinnovano e sono plastiche, il che apre scenari finora inediti sull'evoluzione continua del nostro pensiero. La mia raccomandazione personale per una vecchiaia di qualità è curare il benessere del corpo anche attraverso la prevenzione e l'adozione di stili di vita sani, ma non trascurare mai anche la cura della mente. Questi sono i consigli dell'87enne Umberto Veronese nelle due pagine sulla Stampa dedicate a invecchiare bene. E si parla anche, c'è anche un articolo di Guido Ceronetti, Lucertole, buon appetito e i consigli di un peruviano, mi sembra, che ha 123 anni, sperpenti, quinoa e fogli di coca a 4.000 metri d'altezza. Questi mi sembrano consigli un po' difficili da prendere come dei consigli attuabili da parte nostra. Tornando a parlare del lavoro, restando sulla Stampa, vi sottolineo l'articolo tradizionale Buongiorno, è tornato dalle vacanze Massimo Grabellini, parla di questo dramma avvenuto ieri a Londra. Un giovane è morto nella doccia di un dormitorio dopo aver lavorato nella City dalle 9 del mattino alle 6 di quello successivo, quindi 21 ore consecutive per 3 giorni di fila. E conclude la sua analisi Gramellini, sempre amara, ma sempre con un sottile velo di ironia. Questa contraddizione stridente tra i pochi che lavorano troppo e i troppi che lavorano poco è addirittura mai, sembrerebbe il frutto di un sistema senza governo. Nella storia umana, che è una storia di schiavi, spesso inconsapevoli di esserlo, è sempre andata così, se si esclude un breve intervallo dal secondo dopoguerra agli anni 70 del secolo scorso, quando almeno in Occidente si riuscì a distribuire lavoro e ricchezza e a creare il ceto medio. Ma l'intervallo è finito e la giostra dell'ubriaco ha ripreso a girare anche qui. Solo la politica avrebbe le chiavi per fermarla, ma le ha perse, forse se le è vendute. Questa amara conclusione di Massimo Gramellini, la politica delle grandi responsabilità, alla politica si chiede di affrontare e di non tanto di risolvere, ma di avviare a soluzione poi la possibilità che i paesi possano affrontare i loro problemi interni, i problemi di equità, i problemi di crescita, i problemi di gestione delle risorse. Ma la politica cosa fa? La politica è anche una politica spettacolo, dice Andrea Cangini in un editoriale sul Giorno di ieri. Andrea Cangini si riferisce alla Camera deserta, ieri è stata convocata dalla Boldrini per mettere all'ordine del giorno dei lavori la legge sul femminicidio, 104 presenti, 526 assenti. È andata in scena la Camera la sintesi perfetta di quel che la politica oggi in fondo è. Puro spettacolo, scrive Andrea Cangini. Si apre dunque il palazzo durante le ferie estive non per approvare, ma per incardinare una legge. È un atto dovuto e va bene, quanto alla legge niente a che vedere con la crisi e la condizione reale delle famiglie. Si tratta della conversione del decreto varato con gran clamore dal governo sul femminicidio, reato odioso perché esercitato dal più forte contro il più debole, rispetto al quale si ritengono insufficienti le norme già in vigore. Il motivo è chiaro, il femminicidio è diventato una nuova ragione di angoscia collettiva per il semplice fatto che televisioni e giornali non parlano d'altro. E ancora Andrea Cangini sul Giorno. Le violenze delle donne non sono in aumento, sono in aumento le denunce, gli spazi che i media dedicano. Ma rifulgono i fatti, i fari delle telecamere, lì il politico come una falena si manifesta e legifera prosegue e conclude Andrea Cangini. Perché in aula non poteva mancare il segretario del PD Epifani, uomo della sinistra, dunque attento alla soggettività femminile e morettianamente convinto che si sarebbe notato al meglio essendo presente ma in disparte. Con lui c'erano un centinaio di deputati, in più di 500 hanno dunque ritenuto di starsene al mare. Difficile dire se sono rivelati i migliori o i peggiori. Tra gli assenti spiccavano comunque molti grillini, che pure sui doveri dei parlamentari sono soliti impancarsi e contro la presidente Laura Boldrini sono in guerra l'aperta, perché si sa, la politica ci si assomiglia, più ci si combatte. Abbiamo così assistito, scrive Andrea Cangini sul Giorno, a un titanico scontro tra titanici narcisismi, quello dei grillini e quello della Boldrini, perché quando Max Weber lamentava che la vanità è la peggiore insidia per il politico di professione, non aveva idea di quanto sbidorato possa essere l'ego dei neofiti. Va comunque detto che i 22 grillini presenti non hanno fatto rimpiangere la mancanza degli 84 assenti, corroborati da un manipolo di leghisti sereni e dialoganti, come sono affamati e stanchi, hanno montato una cagnara degna di miglior causa. Non 2 minuti, ma 1 ora e 40 è durato l'idillio. E naturalmente di tutto si è parlato, tranne che di donne e di violenza. Grande spettacolo comunque. È prevista una replica continua. E questa politica spettacolo, commentata da Andrea Cangini sul Giorno. Ci fermiamo qui per le notizie sul traffico, a tra poco. Eccoci qui per l'ultima parte di Primo Piano. Buongiorno da Gianfranco Fabi, che saluto Maria Carla De Cesari, buongiorno. Buongiorno. Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, con lei parliamo della prima pagina, ma anche degli argomenti interni del Sole 24 Ore. Maria Carla De Cesari si occupa soprattutto, mi pare, di fisco, di tasse, di imposte, di tutte queste cose qua, no? Sì, sì, è vero. E abbiamo 5.000 evasori totali, molto recidivi, ma è una notizia oppure lo sapevamo da tempo? Questa era sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Ma diciamo che è una notizia periodica, però perché si tratta appunto del bilancio dei primi 7 mesi della Guardia di Finanza, e questo bilancio del 2013 è sovrapponibile a quello dello scorso anno. Però la cosa molto interessante, che in qualche modo dà anche un po' il senso di questa battaglia, come dire, che continua ma che in qualche modo è molto difficile da combattere, ce lo ha rivelato la dichiarazione di uno dei capi della Guardia di Finanza, insomma, a cui, come dire, si devono un po' queste operazioni, e cioè che gran parte di questi evasori totali sono un po' evasori professionisti, nel senso che dopo qualche anno la Guardia di Finanza li ritrova impegnati in altre attività in nero, totalmente sconosciute al fisco, e quindi, come dire, è un po' uno status di vita quello dell'evasore totale. Questo, come dire, getta un po' un'ombra come dire, sulla lotta all'evasione che come a parole continuiamo a predicare, poi come dire, ci troviamo un po' sempre disarmati quando arrivano questi bilanci. Sì, perché poi spesso appunto si dice che la Guardia di Finanza scopre 5.000 evasori e poi dopo di fatto anche, o magari 5 miliardi di evasione, ma poi quella effettivamente recuperata è sempre molto, sì, molto è meno. Sempre molto, è sempre molto, molto meno. Infatti nel bilancio dei primi 7 mesi si parla di 17,5 miliardi di redditi in qualche modo sottratti all'imposizione, una cifra spaventosa naturalmente, però poi diciamo i poteri e la possibilità dello Stato di rientrare in possesso di quanto dovuto è molto molto inferiore, appunto perché tra l'altro molti di questi evasori, come dire, risultano intestatari di nulla e quindi, come dire, non hanno nulla da perdere. Ecco, un altro elemento della lotta all'evasione è quella del redditometro. Il redditometro, anche oggi il Sole 24 Ore dedica una pagina al redditometro, in cui c'è anche un articolo di Antonio Iorio in cui si parla la necessità del buon senso. Ecco, il redditometro, sì, ha spaventato un po', ma sembra che poi in effetti appunto un'offensiva da affidare soprattutto al buon senso, scrive Antonio Iorio. Sei d'accordo? Ma sì, perché diciamo, redditometro a parte, le informazioni che in qualche modo l'Agenzia delle Entrate sta recuperando sono davvero pervasive, si va appunto dalle spese certe alle informazioni sulle movimentazioni dei nostri conti correnti o comunque di tutto il nostro pacchetto finanziario che avverrà con l'implementazione di questa anagrafe dei rapporti da qui al 31 di ottobre, e poi diciamo tutto il monitoraggio sulle operazioni con l'estero, che è stato potenziato proprio con una legge che è stata convertita in questi giorni e che sarà operativa dal 4 di settembre. Le informazioni quindi che il fisco possiede su di noi sono tantissime e sono davvero pervasive. Ecco perché, come dire, c'è la necessità che gli uffici in qualche modo utilizzino queste informazioni da un lato con intelligenza, quindi sapendo ben intrecciare i vari dati tra di loro, e dall'altro, come dire, non siano alimentati da un intento persecutorio. Cosa voglio dire? Molto spesso gli uffici sono, come dire, pressati dal fatto di dover fare budget, di dover arrivare a fine d'anno con un bilancio positivo, come dicevi tu, nella lotta all'evasione, quindi nel dire: ah, abbiamo quest'anno recuperato, o comunque abbiamo, certo, avviato azioni per recuperare un certo quantitativo di gettito. Ebbene, tutto questo non basta, nel senso che non basta scrivere e non basta in qualche modo sollecitare i contribuenti a pagare, bisogna che l'ufficio in qualche modo dimostri di avere diciamo le carte perché il contribuente effettivamente paghi, e tutto questo in un'ottica non persecutoria, ma appunto di buon senso e di prudenza. Grazie a Maria Carla De Cesari, buon lavoro con il Sole 24 Ore, ci risentiamo con, sempre a Parlando del Sole, con qualche tuo collega domani mattina. Concludiamo questa rassegna stampa con alcune indicazioni di inchieste particolarmente interessanti sui giornali di oggi. Sul fatto quotidiano c'è un'inchiesta sulla Calabria, sull'Ndrangheta. L'Ndrangheta ha ucciso anche le ferrovie. Dalla Cosenza a Catanzaro restano 23 km su 110, ormai soppressa la gioia Tauro Parmi e dimenticato l'Aspromonte. C'è una doppia pagina all'interno dove le ndrine si sono mangiate anche i treni. Della mega stazione di Cosenza rimane solo il parcheggio interrato, ridotto a piccola discarica urbana. L'atrio desolato e la littorina diesel che aspetta di partire verso il nulla. In direzione Catanzaro solo poche fermate, poi bisogna lasciare il convoglio per salire sulla corriera su gomma. E questa immagine appunto di una Calabria in cui anche le ferrovie lentamente se ne stanno vengono dismesse, vengono lasciate morire. La valle del Savuto sarebbe una terra ricca se solo venisse sfruttata la sua vocazione agricola. Sono decine i prodotti tutelati, ma è un marchio improduttivo. Non c'è sviluppo locale, i frutti della terra non si conoscono oltre la cinta della provincia, non c'è impresa per fare l'assistenza, o si fugge al nord oppure si devia almeno verso le due piane di Lamezia Terme o di Gioia Tauro. Ecco, questa doppia pagina del Fatto Quotidiano è un'inchiesta sulla 'Ndrangheta in Calabria. La Repubblica invece dedica un'inchiesta, il suo supplemento R2, all'ultimo operaio, alla guerra dei robot, e sul fatto che appunto l'automazione spinta sta in pratica abolendo gli operai e quindi anche la classe operaia. Infallibili, instabili e anche a basso prezzo, instancabili, scusate, ora anche a basso prezzo. Macchine sempre più sofisticate sostituiscono gli esseri umani non solo nelle catene di montaggio, ma anche nella sanità, nella cura della casa, nei compiti quotidiani. Creatività e capacità di adattamento, ecco i comandamenti per sopravvivere all'invasione dei modelli di nuova generazione. Maurizio Ricci introduce questa analisi: in fondo al tunnel della crisi ci aspetta il compagno Baxter, e c'è poco da far festa. Rapido, efficiente, instancabile, Baxter non è enorme e ingombrante, pesa 75 kg, quanto un uomo normale, ed è abbastanza lento, misurato nei movimenti, da non rappresentare un pericolo, almeno fisico, eppure attenta alla nostra vita. Costa $22,000 a scendere, l'equivalente di un anno di salario, ma per quei soldi lui ne lavora 10. Non occorrono geni della finanza su un consiglio di amministrazione per fare due conti e decidere cosa converrà fare quando partirà la ripresa. Altro che compagno robot, Baxter ci sfiderà la sedia da sotto il sedere e la chiave inglese dalle mani. Anzi, in Italia non lo vediamo perché c'è la recessione, ma nel mondo lo sta già facendo. Ci sono 1,4 milioni di robot al lavoro nell'auto e nell'elettronica globali. La Foxconn, l'azienda che assembla il gadget della Apple, si prepara a installarne 1 milione. Se l'America indica il futuro, è da rimarcare il caso in un'azienda in Alabama che dal 2010 produce 300.000 freni in più l'anno, ma non ha assunto neanche un operaio. E quindi questa è, Maurizio Ricci, su La Repubblica, un'analisi sulla realtà, sulle tendenze dell'industria moderna in cui l'automazione fa sempre più sorpresa. Concludiamo il nostro viaggio dei giornali di oggi con una notizia che hanno un po' tutti i giornali, la riprendiamo da Libero, le rivelazioni di Ratzinger: Dio mi ha chiesto di dimettermi da Papa, e commenta Antonio Socci: avevo ipotizzato su queste colonne che l'epocale rinuncia al papato di Benedetto XVI vi fosse un aspetto misterioso, anzi forse addirittura mistico. Adesso filtrano voci che fanno trasparire proprio questa possibilità. Prima di vedere queste testimonianze, faccio un passo indietro. Come e perché avevo formulato quell'ipotesi, scrive Antonio Socci. Mi avevano colpito le poche ma significative espressioni con le quali Benedetto XVI aveva motivato il suo clamoroso gesto. Nel suo Angelus del 24 febbraio, prendendo spunto dal Vangelo della Domenica della Trasfigurazione, disse: meditando questo brano del Vangelo, possiamo trarre un insegnamento molto importante. Innanzitutto, il premiato della preghiera, senza la quale tutto l'impegno dell'apostolato e della carità si riduce ad attivismo. Inoltre, la preghiera non è un isolarsi dal mondo e dalle sue contraddizioni, come sul Tabor avrebbe voluto fare Pietro, ma l'orazione riconduce al cammino, all'azione. E queste sono citazioni di Papa Benedetto XVI, Papa emerito, in questo articolo di Antonio Socci, che così come in altri articoli sugli altri quotidiani parlano appunto dell'esperienza mistica che avrebbe dato origine alla decisione di fare un passo indietro. E qui ci fermiamo, l'appuntamento è per domani.